con Annette Enneman, regista e direttrice del Festival Teatro di Nascosto, 20 anni di teatro reportage a Volterra dal 23 al 25 novembre. Annette, ben trovata. Buonasera. Raccontiamo questo Teatro di Nascosto? Sì, volentieri, sono molto contenta di espandere la voce su quello che facciamo. Sono 20 anni, sì, di teatro reportage. Io vengo da una lunga storia, sono olandese, ho fatto tutta altre cose, anche il lavoro in carcere con la Compagnia della Fortezza, però da 20 anni racconto le storie con il teatro reportage delle persone che vivono nei territori di conflitto in Medio Oriente o nei territori occupati o nei territori dove c'è grande oppressione. Nel Medio Oriente, allora la Turchia, Kurdistan, Iraq, Palestina, si è formato perché io non racconto raccogliendo storie che mi vengono raccontate. Io lavoro con attori a Baghdad nel momento del 2008 che c'erano molte esplosioni, sono stata a Mosul, ho vissuto in Kurdistan iracheno, Kurdistan turco, turca, con i beduini in Palestina, e si è formato un gruppo in tutti questi paesi di attori e di artisti che sono diventati il nostro gruppo internazionale, che in questo momento stanno arrivando tutti qua direttamente da lì con grande difficoltà di visti, e racconteremo nello spettacolo nostro l'ultimo anno di vita in Iraq, Siria, Kurdistan e Palestina in un modo particolare durante una passerella di moda. E poi arrivano artisti che faranno un concerto curdo, concerto palestinese, spettacoli, film, cortometraggi nel cinema di Volterra. Raccontiamo non per raccontare, ma per far vivere per un momento la realtà di chi vive in mezzo a questi problemi che ti può interrompere la vita da un momento all'altro, con una bomba, con prigione o quello che nel paese dove di quale si racconta. E vogliamo che la gente lo vive, che sente su di sé un momento la realtà lontana. Hai creato vari gruppi nei diversi paesi. Come funziona? Ogni paese ha un suo gruppo teatrale? No, nel gruppo internazionale siamo tutti insieme. Ok. Siamo adesso 30 persone, sì, che provengono da questi paesi, stanno arrivando e li raccontiamo in uno spettacolo. Poi c'è il gruppo del ex teatro stabile di Diyarbakir in Kurdistan turco, che era il teatro stabile di Diyarbakir e è stato chiuso da Erdogan, come sono stati chiusi tanti giornali, ma anche posti medicinali, tantissimi posti, e quel teatro stabile non c'è più. Loro hanno riiniziato in un piccolo teatrino e alcuni degli attori faranno uno spettacolo che racconta la loro realtà. Così ci sono persone dal Kurdistan turco che sono famosi nel loro paese, cantanti, musicisti, che faranno il loro concerto portando la loro cultura. Poi c'è anche una mostra, per esempio, palestinese, quello abbiamo chiamato Punto a Croce, che fa vedere come le donne lavorano tutti vestiti, come li fanno più belli con il punto a croce. Ci sarà una mostra sul Kurdistan turco del 96 in bianco e nera, una mostra nostra dove le foto di viaggi, di spettacoli di 20 anni. Sì, a volte ognuno per sé, ma nel nostro gruppo proprio tutti insieme, e senti cosa è successo nella Siria, cosa è successo in Iraq, nel Kurdistan, nella Palestina in quest'ultimo anno. E le persone poi raccontano vere storie di vita, di come si vive durante un momento che forse è una testata una testata di un giornale o quello che uno può vedere su un servizio della RAI, ma non ti arriva. E noi facciamo del TG o di queste cose attuali, facciamo vivere come si vive lì al pubblico. Questa grande compagnia ha uno spazio, un luogo di residenza? Io come teatro di nascosto ho un bellissimo posto, io sono seduta lungo le scale, adesso nella sala di lavoro nostro, lungo le scale per docciola, una scala antica che porta al posto dove le donne andavano a lavare una volta nel Medioevo e anche un po' più in là. Sì, abbiamo una bellissima sede a Volterra. Ok. Però lo festival si svolge nel teatro Persio Flacco, che è un grande teatro classico italiano, nel parcheggio sotterraneo dove si raccontano le cose che forse anche non si sentono, sono quasi un po' segreto di quello che succede nei paesi, nell'atrio del comune, nel cinema centrale di Volterra, e la base dove ci si ritrova è la nostra sala, che diventerà quasi un salotto dove ci si incontra, dove avremo jam session, dove faremo i monologhi, quelle cose un po' più intime, sì. La nostra sala. Annette, come funziona la costruzione di uno spettacolo? Che metodo di lavoro avete? Allora, il teatro reportage è un lavoro molto particolare, perché noi facciamo un tipo di teatro che non può essere la recitazione che fa pensare che questo è teatro. È più un lavoro d'attore di film quasi, perché il pubblico sa, no, ma questo non è una persona che sta adesso in Palestina. No, deve credere davvero, perché se diventi così reale, che ci credi che questa persona in quel momento ti porta in Palestina. E questo che richiede un grande lavoro, uno di conoscere te stessa e le tue abitudini, perché se entri in un'altra cultura ti devi dimenticare e creare delle nuove abitudini, farli quasi tuoi, altro modo di vestire, altro modo di camminare, altro modo di cantare, per esempio nel Medio Oriente hanno delle note in più che noi. E questo fa che a volte per noi quasi stona, però ti devi abituare in questo lavoro anche antropologicamente, com'è quest'altro mondo, e appropriarti di questo mondo e portarlo. Allora c'è un grande lavoro anche sul training fisico, sul ricordo del corpo che ti puoi portare vere emozioni nel racconto che fai. E poi ti devi aggiornare, questo per me è molto importante, perché noi siamo per una parte un teatro giornalistico, e allora devi anche fare quel lavoro lì, ricerca, cosa succede, devi seguire la sinistra, la destra e trovare in mezzo di tutto questo una verità forse diversa di quello che vediamo normalmente, approfondendo le informazioni. Sì, è un po' complicato, ma è un grande lavoro, sia come attore sia come giornalista particolare, diciamo. Sì, sì. In chiusura, Annette, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più sulla programmazione del festival? Sì, stiamo aggiornando un sito www.teatrodinascosto.com. Chi vuole sapere di più può scrivere a info@teatrodinascosto.com. È importante anche chi vorrebbe venire di prenotare con questo email che ho nominato. Si può andare su Facebook, anche lì c'è la pagina Teatro di Nascosto, su Instagram, su tutti i mezzi. Il programma sarà sul nostro web in lingua italiano, arabo e inglese, perché noi ci rivolgiamo a tutto questo pubblico, diciamo. Bene. Ricordiamo il Festival di Teatro di Nascosto, 20 anni di teatro reportage a Volterra dal 23 al 25 novembre, con spettacoli, concerti, film e conferenze. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Annette Henneman. Annette, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie tanto, arrivederci. Ciao.